Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti all'appuntamento su Radio 24 con i fatti, i personaggi, le storie della cronaca, grandi o piccole, che raccontano la nostra Italia in controluce. E questa è la storia di quelle migliaia di persone che ogni giorno varcano una frontiera per lavoro, tra disagi, storie particolari e a volte anche qualche privilegio. Risentiamo Paolo Piacenza. A immaginarla da Torino o da Milano, la vita dei frontalieri a colori antichi. Viene da pensare a quando gli italiani superavano i passi alpini per andare a guadagnarsi il pane. Cose passate? Fino a un certo punto. Perché in questo 2010 sono 43.000 gli italiani che ogni giorno varcano per lavoro le dogane tra la Confederazione Elvetica e le province del nord, Valle d'Aosta, Verbano, Cusiossola, Como, Lecco, Varese, Sondrio e Bolzano. Ma i 43.000 di oggi sono diversi dai padri d'un tempo. Sono infermieri, edili, operai, ma anche medici, quadri aziendali, dirigenti. Sono stimati, pagati meglio che in Italia e hanno posti di responsabilità nelle industrie o nelle banche, nel settore sociosanitario o nelle costruzioni. E così oggi i frontalieri sono persino un po' invidiati, oppure, dicono loro, guardati con sospetto o dimenticati. Ma i loro guadagni stanno salvando l'economia in crisi di alcune province del nord. Antonio Locatelli è il presidente del comitato frontalieri del Verbano Cusiossola. In un momento di crisi economica come quella che c'è in Italia, in un momento di crisi economica del commercio proprio in se stesso come quella che c'è in Italia, il fatto di percepire comunque un buon stipendio, perché comunque si percepisce, è inutile nasconderlo, un buon stipendio in Svizzera, mi permette poi quando torno in Italia di restituire quello che percepisco in Svizzera in Italia, cioè io vado a fare nei centri commerciali la spesa in Italia. È un gettito di 42.000 persone che comunque fanno girare il commercio. Locatelli era un quadro tecnico industriale, oggi dopo gli studi di psicologia è diventato educatore sociale presso una fondazione ticinese che si occupa dell'inserimento al lavoro dei soggetti svantaggiati. È un combattivo, snocciola gli obiettivi che da sempre stanno a cuore a chi lavora oltre confine. Viaggiare su strade accettabili, non essere perseguitati dal fisco, non essere considerati un popolo di privilegiati da spremere. Anche perché, ricorda Locatelli, grazie all'accordo italo-svizzero del 1974, il 40% delle tasse pagate nella Confederazione torna in Italia, sul territorio. Il frontaliere, oltre a far girare il commercio spicciolo, diciamo, quello proprio legato alla spesa del denaro, comunque sostiene i comuni e le istituzioni, perché il 38,8% di quello che viene versato in Svizzera come imposta alla fonte viene stornato ai comuni che hanno i lavoratori frontalieri residenti. C'è da ricordare che tra l'altro l'Italia ha un trattamento di favore, perché l'Austria, la Germania, la Francia e tutte le altre nazioni confinanti che hanno i lavoratori frontalieri gli viene restituito solo il 12,5%. Per cui il discorso di andare a toccare problemi come quello dello scudo fiscale così va a incrinare questi rapporti italo-svizzeri, che arriverebbero al punto di dire agli svizzeri: adesso chiudo anche questo rubinetto. Lo scudo fiscale è il maggior nodo di preoccupazione, anche perché, denuncia Locatelli, a volte chi si occupa dei frontalieri in Italia non conosce le norme svizzere. E così le banche hanno provato a obbligare i frontalieri a portare in Italia l'LPP, cioè il TFR svizzero, che però, trattandosi di un'assicurazione assoggettata a norme particolari, è disponibile per il lavoratore solo in casi molto limitati. I frontalieri sono riusciti a ottenere ragione su questo punto. Ora cercano di difendere i loro conti stipendio, obbligatori nella Confederazione per il versamento dei salari. Lo scudo fiscale e le prese di posizione italiane nello scontro tra Svizzera e Libia hanno reso più difficile i rapporti tra Italia e Confederazione. Ma Locatelli difende il comportamento del governo elvetico. Io devo dire che se c'è uno Stato che si è comportato da signore, e non perché ci lavoro, è la Svizzera, perché non ha espresso quelle recriminazioni che avrebbe potuto esprimere. L'unico partito in Svizzera è stato un po' il partito della Lega dei Ticinesi, che ha fatto pressioni sul governo perché si facesse in modo di avere delle ritorsioni direttamente sui frontalieri. Devo dire che il governo svizzero è stato al di sopra delle parti di queste polemiche, soprattutto è stato molto intelligente nel gestire la cosa e non abbiamo avuto recriminazioni dirette. Italia in controluce. E ora un personaggio del cinema e del teatro, una donna di grande temperamento e di grande simpatia. Franca Valeri alle prese in questi giorni col suo spettacolo. L'ha incontrata Marta Cagnola. Lo spettacolo non finisce mai, neanche quando l'età avanza, neanche quando la salute inevitabilmente è un po' quella che è e la voce non è ferma come una volta. Basta una parrucca bionda a caschetto e occhiali azzurri, un filo di trucco e lei torna sul palco, tutte le sere, al Teatro San Babila di Milano, con i suoi quasi 90 anni. Franca Valeri, un monumento dello spettacolo italiano, guarda avanti. Non è una cosa insolita che faccio. Ma l'ironia fa parte della natura di certe persone. Per me è istintivo vedere ironicamente certe cose, certe persone, certi pezzi della vita. E per esempio, io ho la fortuna di avere una mente logica, quindi a un certo punto si deve guardare in faccia quello che ti capita, vedere cosa puoi fare, ecco, non abbandonarsi alla disperazione o al godimento eccessivo. Però è questione un po' di temperamenti. Franca Valeri ha raccontato nella sua carriera le donne italiane che ha osservato con grande attenzione. Mi sono sempre ispirata alla realtà, ecco, non è che siano casi speciali. Come vede le donne di oggi? Lei che ha inventato la signora Ceccioni, la signorina Sdom, che erano delle signore di qualche anno fa, quelle di oggi come le vede? Guardi, sono personaggi ancora molto presenti. Adesso, ma direi che la vita delle donne è molto apparentemente migliorata, sostanzialmente peggiorata. In un mondo difficile e povero come adesso, presenta dei problemi che forse non si aspettavano le femministe. È un bilancio? No, perché la signora Valeri sta preparando la prossima commedia, tutta scritta da lei, Non tutto è risolto, che andrà in scena il prossimo ottobre. Basta una piccola cosa, perché pensi, no, ho ancora delle cose da fare, andiamo. E questa è una grande filosofia della vita. Molti si suicidano a 20 anni, altri continuano a vivere a 90. Dipende dai tipi, da come nasci. È tutto per Italia in Controluce, potete scriverci a controluce@radio24.it. Ci risentiamo oggi all'edizione delle 13:30. Buona giornata.